Si da innamorarsi. Ok? Bello. Allora per la regia, il disco voglia di te, la numero 9. Ecco a Mi voi. Mi raccomando, maestra. Okay. Ecco a voi Gigi. Grazie, gentilissimo. Canından. Il tuo fisico sbagliante, il tuo sguardo provocante va. Ciao Bostegian me. Fora stu palazzo tutte sere quando viene a Vaticano. Ma non trovo coraggio di fermar. Però stasera sto mondo a ma faccio forza e dico che la gai tengo tu sei a me. Ma si da innamorarsi di me, fosse più facile per me. Tu colorassi sti giornali per quando sono più scure. E si da innamorarsi di me, sarebbe bello anche per te. Tu regalassi tutto cose, uno che me da non si muove. Io non riesco a trovare un pensiero. E si da innamorarsi di me, fosse felice con me che addormassi con il zucchero che metti in bocca a te. Dimmi che devo costare a te mettere a famore insieme a un buon uaglione. Tu non li ama pensa. Cade sto brugliano a capo, sulla mente vede fa sfuggia. E dopo fatto amore mi ha scorda. Che me ga voglia di, se io vuoi sapere. Basta che sento come sbatto d'oro quando parlo insieme a te. Ma si da innamorarsi di me, fosse più facile per me. Colorassi sti giornali per quando sono più scure. E si da innamorarsi di me, sarebbe bello anche per te. Tu regalassi tutto cose per quello che non si vuole. Io non riesco a trovare un pensiero, non ti so pensare. E si da innamorarsi di me, fosse felice con me che dove nasce con mio zucchero che metti in bocca a te. E si da innamorarsi di me, fosse felice con me che addormentassi come un zucchero che metti in un caffè.